tanto vederti morire. Quando alla festa ti ho vista con lui. Angelo, dimmi chi è stato a volerti bene più di me. E chi ti ha fatto capire l'amore come me. Io non ci credo, tu sei ancora mia. Io non ci credo, io non ci credo. La bocca che cerca la mia, amore.